Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi cari amici vi invito a scrivere, non scrollate la testa, non dite che non avete tempo, il tempo si trova. E l'idea mi è venuta pensando ai nostri figli. I nostri bambini hanno scritto la letterina a Babbo Natale, un rito che si ripete da anni e da generazioni, ma anche, se ci pensate bene, un esercizio formidabile in cui rigore, autoanalisi, serietà, ma anche magia e speranza si mescolano e si compenetrano. Di solito le letterine a Babbo Natale iniziano così. Caro Babbo Natale, tu lo sai che anche te quest'anno poteva anche essere più buono di così, però penso che anche così andava abbastanza bene. Ho fatto qualche dispetto a mia sorella, però anche lei me li faceva a me. E poi comunque alla fine facevamo la pace. A scuola sono stato bravo e comunque tutte le volte che la mamma fa la lavatrice io scendo a stenderle i panni. Insomma, si può dire che il mio dovere l'ho fatto abbastanza. Allora adesso tu fai il tuo. Portami il videogioco di FIFA 11, il libro di Ulisse raccontato da Geronimo e se fosse possibile anche una Wii. Però lo so che mio papà non è molto d'accordo su quest'ultimo gioco, per cui prima parla con lui. Non vorrei che tu me la metti sotto l'albero e lui me la chiuda a chiave nell'armadio. Grazie, ti aspetto. Fai attenzione con le renne, perché sul mio tetto ci sono i pannelli solari e di questi tempi, col ghiaccio che c'è, sono molto scivolosi. Ti aspetto. Insomma, uno schema classico. Nella prima parte un bilancio, un elenco delle cose belle e buone che hanno reso speciale l'anno. Nella seconda le richieste, i sogni, le aspirazioni, i desideri, i buoni propositi. Se vi piace, noi oggi nel corso della nostra trasmissione seguiremo proprio questo schema. 800 24 00 24. Raccontiamoci allora quello che di quest'anno ci è piaciuto, ci ha sorpreso positivamente, ci ha aiutato a stare bene, ci ha reso migliori. Facciamo un elenco un po' sull'onda di Vieni via con me, no? Di quelle che abbiamo sentito e apprezzato. Voi scrivetemelo, potete farlo su Facebook, potete farlo al 349-238-6666 e parteciperete così alla nostra iniziativa. Il consiglio di lettura di oggi è infatti I prodigi del pensiero positivo. Se invece quest'anno non è stato un anno particolarmente felice da ricordare, puntiamo tutti sul futuro, no? È quello che faremo nella seconda parte della trasmissione, con la sezione dedicata ai propositi, alle cose da fare, da provare, alle nuove sfide, ai sogni. Mettetevi subito in gioco, perché anche questa seconda opzione vi permetterà di ricevere a casa, in collaborazione con IBS, il consiglio di lettura, un secondo consiglio di lettura. Abbiamo scelto 365 buoni propositi per l'anno nuovo. Insomma, attivatevi subito, vi ricordo 349-238-6666, gli elenchi potete farli anche a voce all'800 24 0024. La voce di Frank Sinatra e Nat King Cole, le note di Michele Yesterday, i pugni che tirava Cassius Clay, e quella notte davanti alla TV, un'astronave, un uomo che scendeva giù. Ho messo tra le cose da salvare. Le cose da salvare, cantava Barbarossa, ma noi alla fine dell'anno, un po' per la stanchezza, un po' perché la memoria è corta, tendiamo ad essere negativi e ci dimentichiamo di quello che di bello ci è capitato. Ogni anno porta con sé buone notizie, anche il 2010 lo ha fatto, anche se sembra un po' in sordina, ma cerchiamo di ricordarci le cose buone del 2010 e io ho chiesto aiuto a un grande amico, Oscar Giannino, che è qua in studio con me. Ciao Oscar. Ciao Nicoletta e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi fai il buono, quindi? Beh, io sinteticamente dico tre cose che mi hanno molto colpito buone, due sono serie, la terza poi è serissima. Le prime due cose serie buone del 2010 a cui stiamo poco attenti secondo me. Primo dato, tutti quanti, la crisi, la difficoltà eccetera. Pensate che nel 2010 il totale dei 30 milioni pensate, 30 milioni di disoccupati aggiuntivi di tutti i paesi avanzati per via della crisi, 30 milioni, sono tanti in tutti i paesi avanzati, Italia, Europa, America e così via, però ci sono 90 milioni di occupati nuovi nei paesi avanzati. Allora pensate che in questi anni in cui noi vediamo solo la parte che mette in difficoltà noi, in realtà su questo pianeta, in questi anni, questi nuovi paesi in cui centinaia di milioni di persone stanno trovando sbocco nel lavoro, escono dalla povertà, dalla pura sussistenza, si avviano a un benessere e dignità un pochino meno lontani dai nostri, questa è la cosa positiva. Dal 2001 a oggi sul pianeta ci sono 700 milioni, 700 milioni sono tanti, di occupati aggiuntivi. Questa roba nel 2010 continua ad avvenire e noi non dobbiamo pensare solo alle nostre difficoltà, dobbiamo pensare che con le nostre difficoltà risolviamo anche e rendiamo possibile agli altri, centinaia di milioni di persone ogni anno, anche in questo 2010, molti più dei nostri disoccupati, di diventare persone un po' con la vita più degna di essere vissuta. Ammesso, questo scalda il cuore ed è la prima cosa. La seconda cosa ha a che vedere con la libertà, perché senza libertà non c'è dignità nella vita, e questo riguarda noi che ce l'abbiamo, perché le nostre generazioni precedenti l'hanno conquistata con amare sofferenza dopo la guerra, il fascismo eccetera, ma anche questa è una battaglia mondiale. Allora io dico che San Suu Kyi, liberata in Birmania, una donna d'acciaio come sanno essere le donne, coerenti nel tempo, che non si piega di fronte ai generali, alle mitragliatrici, ad anni e anni chiusa senza poter fare nulla in casa e incarcerata, San Suu Kyi finalmente libera, insegna a ciascuno di noi quello che bisogna tramandare ai nostri figli. Non è un problema che riguarda solo la Birmania, la Cina, eccetera, è un problema che riguarda la dignità di ciascuno di noi. Quella donna ha, per la sua tenacia e la sua pacatezza nelle parole, non le esce di bocca mai una parola eccessiva, mai una condanna di quelle che in Italia si riservano a stupidaggini tutti i giorni. Nella sua misura, la sua dignità è una lezione per tutti noi, e in questo il 2010 ci ha regalato un altro grande esempio. Poi la cosa, secondo me, ancora più importante. Quando quest'anno è uscita l'ennesimo attacco proditorio della tribù canina che voleva dare temi scientifici e argomenti scientifici al fatto che i cani sarebbero più intelligenti dei gatti, col mio Artù abbiamo riso e lui mi ha zampato, perché noi siamo sicuri che invece la superiorità della tribù felina, suprema manifestazione della divinità su questa terra, non se ne abbiano le signore, ma le metto subito dopo i gatti in a questo. Fianco, dai. Ecco, e allora in realtà i gatti sono più intelligenti. Questo 2010 me lo conferma in maniera assoluta, e con questa certezza, infatti, io passerò l'ultimo dell'anno in momenti decisivi, zampa non zampa, con il mio amicione. Grazie Oscar Giannino, che ci hai fatto un po' innamorare. Ma non lo so, però insomma. Mi piace. A me piace l'idea che voi che siete in ascolto, Nicoletta Carbone, ci avete un tesoro incommensurabile. Mi dispiace, questo violino non era concordato, lei mi sta guardando male, però io di cuore lo dico, perché voi, se siete come lei, mi sa che cambierò trasmissione e verrò più spesso ospite. Grazie Oscar, un bacio. Auguri. Grazie, allora anche voi siete d'accordo? 800 24 00 24, anche voi, anche per voi queste sono state buone notizie. E allora io mi chiedo, ma come mai tendiamo a dimenticare il buono a favore del cattivo? Il positivo viene spesso sopraffatto e cancellato dal negativo. Siamo forse, cari amici, nati pessimisti? La nostra mente è programmata per ricordare meglio le esperienze negative e quindi farne tesoro per evitare errori futuri? Una domanda che giro al professor Perna. Buongiorno, che è tornato a trovarci. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professor Perna, io non la presento più. Dico anche che, oltre a essere psichiatra, direttore scientifico presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano, lei è anche professore di neuroscienze all'Università di Maastricht in Olanda. È vero, tante cose, però la cosa importante è proprio quello di studiare le emozioni. Quello che dobbiamo stare attenti, ragionare molto con attenzione, è il fatto che le emozioni negative, quindi i fatti negativi, purtroppo sono più importanti per la sopravvivenza di tutti noi rispetto a quelli positivi, motivo per cui è più facile imprimerli nella memoria. Questo fa sì che spesso noi guardiamo sempre quel bicchiere mezzo vuoto, dimenticandoci invece della parte piena. Nel 2010, l'esempio che ci ha fornito prima è stato molto molto intenso, sono accadute tante cose positive, non solo per il mondo, probabilmente anche per noi singoli. Basta sedersi un attimo a riflettere, ma bisogna farlo, per poter tirare fuori dal cilindro tutta una serie di aspetti che condiscono la vita, il 2010 come un anno positivo. Io direi, più che augurarci un 2011 positivo, diciamo viva 2010, con tutte le difficoltà che hanno avuto, però per ognuno di noi ha avuto sicuramente alcuni aspetti positivi. Professor Perna, ma se noi volessimo cercare di iniziare l'anno, finire quest'anno, guardando il bicchiere mezzo pieno e quindi cercando di non fossilizzarci sempre sulle esperienze negative che accumuliamo, che possono essere più o meno serie, più o meno gravi, abbiamo qualche ricetta? La ricetta è molto semplice, bisogna diventare consapevoli, cioè bisogna sedersi un attimo a riflettere. Questo vuol dire prendere dalla memoria, prendere da tutto l'anno quelli che sono i fatti positivi, e sicuramente ce ne sono stati tanti. Il problema vero è che se noi non ci fermiamo a riflettere, cerchiamo sempre di guardare con l'occhio quella parte che noi vorremmo e che non abbiamo avuto. Per cui il famoso bicchiere mezzo vuoto è la parte più automatica del nostro cervello, mentre il bicchiere mezzo pieno dobbiamo tirarlo fuori. Quindi riflettere, sedersi, il consiglio è anche quello di sedersi e proprio scriverlo. Scriverlo, perché la scrittura imprime nella memoria quello che noi pensiamo. Quindi iniziare proprio da gennaio e ripercorrere tutto l'anno, tutti i momenti positivi, l'estate, tutti quei momenti che hanno in qualche maniera compensato quelle difficoltà che oggettivamente ci sono state. Quindi infatti io ho invitato i nostri ascoltatori a fare proprio un elenco, a scrivere. Naturalmente possiamo farlo appuntando qualche idea sul foglio, inviandola al 349-238-6666, c'è il nostro profilo Facebook, oppure scriverle, ma nel senso raccontarle a voce alta all'800-24-0024. Grazie professor Perna per essere stato con noi, buon anno! Buon anno a te e a tutti gli ascoltatori. E noi continuiamo con le buone cose che l'anno ci ha portato e la ricerca a diverse medaglie. In linea con noi abbiamo il professor Remuzzi, coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buon anno. Che felicità averla qua, perché io vorrei che lei ci raccontasse tutto quello che la ricerca ha fatto, i risultati che ha raggiunto e quindi che cosa ci aspetta per il futuro di buono. Tutto ci teniamo 3 giorni, allora diciamo le cose più importanti. Sì. A luglio i ricercatori hanno trovato un gel vaginale che uccide il virus dell'AIDS e riduce l'infezione del 54% nelle donne che lo usano regolarmente. Questo è successo in Sudafrica, hanno studiato 900 donne, è un risultato straordinario, è il primo vero grande passo avanti nei confronti della lotta all'AIDS, per la quale noi non vediamo che ci sia un vaccino all'orizzonte, ma chi l'avrebbe detto che quest'anno avrebbe portato davvero una novità importantissima. Questa, a mio avviso, è la novità più importante dell'anno. E poi c'è una cosa che ha colpito tutti moltissimo. In un certo senso quest'anno è stata l'anno della nascita di una vita un po' artificiale. Craig Venter ha preparato una cellula realizzata con del DNA, quello che contiene il codice genetico, preparato in laboratorio, DNA sintetico. Craig Venter è stato l'autore, insieme ad altri, della mappa completa del DNA umano. È riuscito questa volta a dare vita a un batterio che è controllato da un DNA che è fatto in laboratorio, fatto da sostanze chimiche, ma che è in grado di autoreplicarsi proprio come il nostro DNA. E quindi abbiamo un batterio, in un certo senso, costruito in laboratorio. Le applicazioni di questa scoperta potrebbero essere estremamente importanti. Per esempio, questi batteri potrebbero essere fatti in modo da fagocitare intere zone inquinate, dare origine a carburanti che non siano pericolosi alla salute, a nuovi vaccini per tante malattie e tante altre cose che oggi non immaginiamo nemmeno per la salute dell'uomo. Un altro passo avanti importante riguarda le cellule staminali. C'è sempre grande attesa per la capacità di queste cellule di riparare organi e tessuti, e tutti si aspettano che un giorno o l'altro con le cellule staminali potremo per esempio riparare il midollo spinale e il cervello dopo incidenti, per esempio. Ecco, quello che è stato fatto negli animali quest'anno suggerisce che andiamo verso questa direzione, e tra l'altro c'è un aspetto molto interessante: siamo ancora lontani ad applicazioni dell'uomo di cellule staminali, ma i primi 2 studi clinici sono stati avviati negli Stati Uniti, uno proprio nei confronti delle lesioni del midollo spinale. E si sta smostrando un pochino la famosa discussione etica cellule embrionali, non cellule embrionali, perché abbiamo imparato, e lo stiamo facendo anche in Italia, in diversi laboratori, a ottenere cellule staminali dalle cellule della cute. Noi prendiamo le cellule della cute, ci mettiamo 4 geni che sono dei geni caratteristici dello sviluppo embrionale, e con quei geni lì le cellule ritornano ad essere cellule che assomigliano a quelle embrionali. è difficilissimo, ma è vero. È una cosa che davvero si riesce a fare, per quanto sia estremamente difficile. Si continuano mese per mese a trovare dei miglioramenti, dei sistemi per rendere questo metodo sempre meno complicato. Io sono convinto che nel giro di 3 o 4 anni noi avremo delle cellule che potremo usare come quelle embrionali senza essere embrionali e senza ricorrere agli embrioni. Abbiamo capito che le cellule staminali dei tumori sono quelle che causano la ricaduta dei tumori, sono le cellule più pericolose, e quindi almeno abbiamo un bersaglio da combattere, e questo è di fatto un passo avanti. Ci sono delle novità in campo dei farmaci, per esempio ci sono dei farmaci nuovi per la sclerosi multipla che hanno dei nomi complicati, ma non è importante, sono dei farmaci probabilmente più efficaci dell'interferone beta, però come sempre succede con i farmaci, siamo ancora in un campo in cui ci sono effetti collaterali, effetti negativi molto importanti, e quindi dobbiamo migliorare questi farmaci lasciando l'efficacia e riducendo al minimo la tossicità. E c'è un grande passo avanti nel campo delle malattie rare. Nelle malattie rare sentiamo sempre parlare, trovato il gene di questo, trovato il gene di quello. Questa volta, dopo tanti anni e tanta ricerca in cui si sono trovati i geni associati a una forma di malattia rara dei bambini, è la causa più frequente di insufficienza renale dei bambini, è fatta da trombosi dei capillari che succedono perché non si governa più il sistema del complemento, è causato da difetti di diversi geni, li abbiamo identificati tutti, tanti ricercatori, anche l'Italia ha contribuito, Teleton ha portato un supporto importante. Ecco, adesso c'è un farmaco e proprio in questi giorni si sono conclusi i primi 4 studi che hanno fatto vedere che questo farmaco funziona. Questi bambini, l'80% di questi bambini con la malattia genetica più grave di questo gruppo moriva entro i 5 anni d'età, adesso non moriranno più. Abbiamo finalmente un farmaco, dopo aver trovato il gene, un farmaco intelligente che è stato disegnato proprio in rapporto al difetto genetico. Chissà che questo non si applichi un domani a tante altre malattie rare. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi e per averci portato e ricordato, spiegato soprattutto, tutte queste buone notizie della ricerca. Un motivo in più per continuare a investire nella ricerca. È un appello che faccio sempre ai miei ascoltatori. Grazie professore. Grazie a voi, buon anno. Buon anno anche a lei. E io vado a Bologna perché all'800240024 mi ha chiamato Edero, è giusto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sì, sono Edero. Chiamo da Bologna, la ringrazio tanto. Elisabetta Carbone, che non ho mai parlato con lei, dico bene? Sì, mi chiamo Nicoletta, sì. Ma è uguale. Ah, è Nicoletta. Sì. Però è uguale? Sì. Ma volevo dire solo pochissime cose. Sì. Perché io sono di temperamento ottimista e ho chiamato anche perché soprattutto per lei e anche perché ho sentito Oscar Giannino, che non riesco mai, che ho visto il suo bellissimo intervento, che non dobbiamo guardarci qui a due millimetri da noi, che abbiamo disoccupazione, va bene, ma quando nel mondo l'occupazione è aumentata. Dobbiamo proprio portare un po' lo sguardo un po' più lontano. Quando si dice l'altro, ecco, facciamo andare lo sguardo lontano, alziamo lo sguardo, Edero. È bellissimo, le dico che io così per ho occasione, poiché do via qualche posto letto a camera, qui ho spesso degli extracomunitari, gente che viene da lontano, solo il contatto con questa gente qui si vede che non siamo tutti qui nella nostra piccola provincia, anche se... Ecco, allarghiamo i nostri orizzonti, si dice sempre così, ma dovremmo farne tesoro e applicarlo nel quotidiano. Grazie, buon anno. Silvana da Pordenone, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti sempre a lei in particolare, ma a tutta Radio 24, perché chi lavora manualmente credo che vi ascolti tutti i giorni e siete un aiuto per noi. Ah, grazie Silvana. Lei ha un elenco delle cose buone di quest'anno da regalarci? Ma io mi ritengo una positiva ma sfigata perenne. Come? E così succede, a 52 anni posso anche fare un po' di risultato. E allora così dico, quest'anno sono andata, tipo, bisogna sempre vedere il lato buono, no? 18 giorni di ospedale, pensavo di finire nell'altro mondo, insomma è andato tutto bene. Allora tutti mi dicono, certo, ti va bene, però sei sfigata. No, noi guardiamo, ti va bene. Perché sì, ti va bene, ecco. Nel senso, esatto, esatto. Io sono estremamente positiva, però certo che la vita ti piega in due. Ti mette un po' alla prova, ma se uno riesce a rialzarsi, un po' come gli errori, non conta non sbagliare mai, conta continuare. Che dice Silvana? Ricordarsi degli errori fatti, no? Evitando di fare altre ulteriori scemenze, così chiamate. Silvana, in bocca al lupo per tutto, auguri, grazie per averci chiamato e per ascoltarci. No, io vi ringrazio tantissimo, continuate così e vi abbraccio tutti quanti. Grazie, e noi restituiamo l'abbraccio. Adesso noi andiamo a sentire i mercati, il meteo, 800 24 00 24. Ricordo, oggi, due consigli di lettura. Per chi vuole raccontarci, fare una sorta di elenco al 349 238 6666 o in alternativa sul nostro profilo Facebook, di quello che di bello ha avuto dal 2010, il consiglio di lettura, grazie alla collaborazione con IBS, è I prodigi del pensiero positivo. Se invece volete accantonare il 2010 e puntare tutto sul futuro, e quindi volete raccontarci in un elenco i vostri sogni, i vostri desideri, le vostre aspirazioni, potete partecipare e quindi ricevere a casa, grazie a IBS, 365 buoni propositi per l'anno nuovo. Allora io vi aspetto dopo il meteo. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. E una mia cara amica è al telefono, non le scrivo, ma la saluto con un abbraccio. Monica Setta, ciao! Nicoletta, buon anno a te, complimenti. Grazie. Io ti faccio i complimenti di cuore perché ti seguo sempre con una costanza, direi quasi tra virgolette maniacale, perché sei bravissima e sei una donna di successo sempre sulla cresta dell'onda. Difficile per le donne. Monica, io cerco di imparare da te. D'altronde, Monica, tu sei qui. Sono le 11.35 del 30 dicembre in collegamento con Essere Benessere, solo per amore. Direi. Solo per amore. Solo guarda, per amore. Guarda, è un'avventura difficilissima perché per la prima volta nell'intrattenimento ed è complicato, tu lo sai perché tu sei una bravissima giornalista, facciamo un altro mestiere, noi diamo notizie. Ecco, intrattenere è complicato, però... Però mi è piaciuto, mi piaci molto e direi proprio alla grande. Adesso lunedì 3 gennaio abbiamo una sorpresa. Perché come al solito io sono sempre un po' scapigliata, tu lo sai, e allora ho un po' rivoluzionato la formula di Solo per Amore, che era dedicato alle storie delle persone comuni, e ho fatto un po' un 48, quindi lunedì sera... Non possiamo dare anticipazione, vi giuro, sì, che non le ha dette neanche, guarda, a me, no, ho cercato di... Perché è una grandissima puntata con tutti gli amori dei VIP, oh. E cominciamo con il matrimonio di Vittorio Sgarbi, ti ho detto, no, tutto. Mi hai detto alle tutto. 21 su Rai 2 lunedì 3 e noi saremo tutti lì. Senti, Monica, noi oggi facciamo un po' di elenchi, no? Un po' di quello che è stato bello del 2010, perché ricordare le cose belle aiuta ad affrontare anche quelle meno belle, no? Ci si ricarica. E poi vogliamo naturalmente sognare, raccontarci progetti, sogni, sfide che vorremmo affrontare. Ma qual è la tua ricetta per buttarti alle spalle le cose che non ti sono piaciute e per affrontare con energia positiva, proprio quella che sempre ti caratterizza, le cose che ti attendono? Guarda, è un meccanismo veramente, come dire, psicologico, la rimozione. Io da una parte sono stata fortunata perché ho questa rimozione molto facile, cioè dei momenti di grande dolore e poi immediatamente diminuisco. Quindi sono tra quelle persone fortunate che dimentica il male e ricorda solo il bene. Questo funziona perché non sono rigorosa, funziona meno perché poi magari ricasco nell'errore, cioè non mi ricordo di quelli che mi hanno fatto del male e magari li incontro una mattina, mi sorridono e ci ricasco. Per questo siamo amiche, perché abbiamo un po' lo stesso vizio, che però secondo me è una virtù. Però ci porta bene. Poi, guarda, io davvero, lo dico con grande sincerità, io ti seguo sempre, perché hai una chiave di affrontare una materia complicata come quella dell'essere, del benessere, e quindi metto anche in pratica, tu lo sai, anch'io dei piccoli trucchetti proprio pratici. Che sono poi quelli di prendermi degli spazi all'interno della giornata solo per me e di non pensare a niente, cioè di fare proprio tabula rasa. Ecco, questo non è una forma di egoismo, perché tante volte noi siamo stati un po' allevati, pensa agli altri prima gli altri, ed è assolutamente sacrosanto, però se noi non ci preserviamo, se non ci strutturiamo, se non cerchiamo quegli spazi a cui tu facevi riferimento, noi non possiamo aiutare nessuno. E certo, infatti bisogna ricaricarsi da soli e poi ognuno si ricarica a modo suo. Io per esempio in questa fase della mia vita non ho l'amore, racconto l'amore su Rai 2 in prima serata, però non ho l'amore perché mi sono separata dopo 15 anni da mio marito, però ho una figlia bellissima di 13 anni che si chiama Gaia e ho scoperto che si può vivere anche con un pezzo mancante. Per tanto tempo noi donne dovevamo essere poi noi, proprio ecco io e te, cioè le figlie di quella generazione degli anni rampanti, no? Quindi bravissime, sempre tutto insieme, il lavoro, la famiglia, io so di te, la tua capacità di conciliare gli affetti con la carriera, costantemente con titoli, no? Usiamo un linguaggio corsistico sempre in rialzo. E questo io a un certo punto per me questo meccanismo è andato in crisi e mi sembrava di essere disperata. Invece poi ho capito che con un pezzo mancante non solo si può convivere, ma a una certa età, io ho 46 anni, quasi in mezzo perché li ho compiuti il 5 agosto, ti devo dire che io adesso per esempio l'amore non ce l'ho, però convivo bene. Sono sicura che magari anche questa fase di successo, tra virgolette, televisivo prima o poi si archivierà, perché è una parentesi, e vivrò bene comunque, cioè evitare le dipendenze da qualsiasi cosa, imparare a stare bene da soli. Senti, tu dovresti venire ogni tanto a farci da coach, Monica. Magari, io ti chiamo, io vorrei però, io ti seguo. Però sapere un regalo che Babbo Natale si è dimenticato di portarti. Ma a cui tu tenevi tanto, perché magari se non arriva Babbo Natale porta la Befana. Io sono fan della Befana. Io tenevo tanto ad essere un po' più capita, nel senso che sono stata molto, anche televisivamente, fraintesa. Un certo abbigliamento vistoso, gli orecchini, un po' un modo di fare esuberante, tra virgolette, sopra le righe, no? Mi ha sempre assimilato oppure reso omogenea ad una categoria di persone che invece un po' più superficiali, che con me non hanno niente a che vedere. E allora io speravo, così negli ultimi tempi, di essere un po' più compresa. In realtà mi rendo conto che questo è un paese difficile, quando tu vieni consegnato con un'immagine, quell'immagine ti rimane così come un marchio di fabbrica attaccata per sempre, e poi è un paese dove ancora l'abito fa il monaco e non basta niente a cambiare, perché poi tu sei sempre così, io sono per tutti sempre la donna esuberante, la donna un po' così, un po' artistica, terragna, agreste. In realtà poi io dentro sono una persona magnifica, di fragilità, anche di grandi timidezze, eccetera. Io speravo così che Babbo Natale mi portasse questo dono di essere un po' più capita. Vedrai che arriva la Befana, Monica. La Befana, magari, ecco, non so, il dono più bello potrebbe essere un nuovo amore, però non ci credo molto. Va bene, ma io sai che sono un po' streghe Befana, io ti dico. Che tu sei anche un porbonaire, diciamo, è vero, noi ci vantiamo di questo. Nell'ambiente giornalistico, quelli che passano da te poi comunque vedi? I sogni li realizzano. E allora noi ci sentiamo presto per raccontare i sogni Nicoletta, realizzati grazie, di Monica. Grazie di cuore. Guarda, io sono qui nello studio solo per amore, quindi ci sono come tantissimi amici che saranno poi ospiti, dunque da Valeria Marini, Maria Grazia Cucinotta, Barbara De Rossi, Luca Ward, tantissimi, tutti ti ringraziano perché mi hanno ascoltato in questo collegamento. Ci stiamo facendo le prove, ti salutano e saluto anche voi. Per te. Grazie a te. Ciao Monica, ciao, ci vediamo lunedì. Allora, noi abbiamo Michela che ci chiama da Pistoia, 800 24 00 24. Michela, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Stavo ascoltando la tua trasmissione e diciamo che l'anno 2010 non è stato tanto clemente con me e mio marito. Siamo artigiani, abbiamo fatto il 50% meno dell'altro anno. Però Oscar Giannino mi ha fatto riflettere. Vedi, il mitico Oscar. Sì, veramente. È un grande. E spero che questo 50% che ho fatto meno si contribuisca a risollevare qualcuno che veramente stava peggio di me. Certo. E sono sicura, anche se insomma non è che ci piaccia molto, perché siamo egoisti, come diceva la tua amica, come in pratica guardiamo nel nostro orticello, non guardiamo mai in quello accanto. Ecco, la speranza è questa, che quest'anno sia diciamo il clou, cioè più basso di così non si possa andare, e senta, che sia servito. Michela, sa che c'è un detto siciliano: bello tempo e malo tempo non durano tutto il tempo. Ecco, io ogni tanto, quando mi sento proprio giù, che raschio un po' il barile, penso a questo proverbio. Mi scusino gli ascoltatori siciliani per la pronuncia che non è stata corretta, però è vero, no? Poi è una ruota un po' che gira, noi dobbiamo concentrarci e sapere che il futuro ci prospetterà sicuramente qualche cosa di buono, anche qualche cosa di meno buono, ma insomma, Michela, andiamo avanti. Grazie Michela per essere intervenuta. Voi che cosa che volete, che cosa vi proponete per il 2011? Quali sono i vostri sogni? Una ricerca ha cercato proprio di scoprire i desideri degli italiani, che sono custoditi da Enrico Finzi, sociologo, che è in linea con noi. Enrico, benvenuto, ciao! Ciao Nicoletta, a te e agli ascoltatori. Allora, tu sai che cosa desiderano gli italiani per il 2011? Io so che cosa ci hanno detto, e ci hanno detto delle cose di gran buon senso. Ci hanno detto che desiderano il lavoro, che manca o è precario e demotivato, desiderano un po' più di reddito e una condizione socio-economica un po' migliore, specialmente desiderano serenità. E lamentano, specialmente le donne, un livello di stress, di fatica di vivere che sta diventando insopportabile. Non ci sono richieste stravaganti in particolare, viene fuori un popolo saggio, un popolo moderato che si aspetta poche cose, quelle che contano nella vita. Non è una gran notizia, o forse è la maggiore notizia di questo fine anno. Direi di sì, Enrico. Tu che cosa desideri per il 2011? Io mi ritrovo assolutamente nel profilo delle donne da te descritte, ma tu? Ma io sono un privilegiato e quindi desidero cose per gli altri, desidero cose per le mie nipotine di 4 e di 5 anni e mezzo, penso e incontro tante persone che fanno fatica appunto a vivere, e siccome sono fortunato, allora ho desideri rivolti agli altri. Un mondo un po' più umano. Il 68% dei nostri intervistati, degli italiani dai 15 anni in su, lamenta la barbarizzazione, l'incattivimento dei micro rapporti quotidiani. Chiede un po' più di dolcezza, di gentilezza, di minore volgarità, eccetera. Mi sento di condividere questo auspicio. Abbiamo grandi problemi planetari, ma nel nostro piccolo potremmo cominciare dalle piccole cose per migliorare un po' la vita nostra e degli altri. Questo è un buon proposito. Enrico, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon anno. Grazie a voi, auguri. Auguri. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Continuate a scriverci i vostri elenchi. A tra poco. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. worry. Non so a voi, ma per me è terapeutica questa canzone. Finzi ci raccontava del desiderio degli italiani, delle italiane soprattutto, di abbassare il livello di stress. Noi non abbiamo ricette, io non ho una ricetta, ciascuno di noi deve trovare quella sua personale, perché al di là della quantità di stress, del peso, bisogna vedere quanto noi siamo capaci a sopportarlo. Allora ho pensato di farmi dare una mano da un po' di amici, da qualche collega, e naturalmente ho voluto coinvolgere Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca. Ciao Nicoletta, ciao. Vedi che non parliamo di prostata. Stranamente, vedi, mi chiami solo per quello. Beh, però c'è, no? Una cultura sulla prostata illimitata ormai. Va bene. No, perché ho ascoltato te, non perché abbia avuto. No, la prostata i maschi ce l'hanno. Sì, sì, ce l'hanno. Ecco, non è che uno dice ho la prostata e vuol dire che sei malato. Ma siamo pieno di organi. Non hai sentito bene le mie puntate, che non potrò più fare sulla prostata ormai. Hai detto pazienza. Tutto il dicibile. Non so, ci sono evoluzioni, siamo qui, sono qui per apprendere. No, perché io adesso non vogliamo stressare con le malattie i nostri ascoltatori. Però è riduttivo, e voi donne vedete noi uomini come fosse soltanto una grande prostata. No, fate tutte queste battute, il ma corpo delle donne. Può essere che l'uomo ha ridotto la sua prostata, via, sorvoliamo. Un ghiandolone. Senti, invece io vorrei che tu ci raccontassi, diventassi coach, sei parte di una squadra, e quindi ci dicessi come tu tieni sotto controllo lo stress, perché sarai stressato anche tu. Sì, sono stressatissimo, ma io non lo controllo, anzi lo alimento. Lo stress è l'humus vitale per me. Senza stress sono un cadavere, uno zombie, un manichino dentro un armadio. Ricerco occasioni stressanti e stresso me stesso perché sia sempre più stressato. Se non avessi stress non riuscirei a vedere il mondo, non riuscirei a riflettere, non riuscirei a essere me stesso. Lo stress fa parte della mia natura, il mio DNA è stressato. Perché non vedo la ragione combattere con lo stress. Tutti andiamo in una spa, voglio rilassarmi, non voglio fare nulla, voglio spegnere tutto, inseguiamo il silenzio. Ma siamo pazzi, dobbiamo tuffarci nel vortice, sennò non si vive. Io vivo con lo stress. Allora, questa è la ricetta di Gianluca Nicoletti. Io ve ne farò sentire altre tre e poi le mettiamo, anzi no, sono in tutto tre, scusate, altre due, e poi le mettiamo sul sito e voi votate. Quindi Gianluca, il tuo slogan è stressatevi. Benvenga lo stress. Benvenga lo stress. Da Gianluca Nicoletti, quindi un augurio per un 2011 stressatissimo. C'è solo l'obitorio oltre lo stress per me. Va bene. Gianluca, un bacio. Grazie anche a te. E io al telefono Marta Cognola, però qui, dato che io l'avevo descritto come un scolpito, ho detto a Gigi Danelli, scusa, dal fisico scolpito, vieni qua in studio con me, Marta. Buongiorno Nico. Ciao Gigi. Marta. Io sono l'unica che non è in studio perché, siccome sono anche una casalinga disperata, arrivo in radio tra un'oretta, sono qua che faccio i mestieri, quindi anche quella è fonte di stress. Senti, e con il fiocco, cioè ti metti il fularino in testa, i bigodini, perfetto, la casalinga tutto. Proprio. Senti Marta, la tua ricetta che finirà sul sito e che sarà votata dai nostri ascoltatori, Gianluca l'hai sentito, ha detto stress, tu? Allora, stress, io basta, stress non ne posso più. Allora cosa faccio io? Accendo la musica, sì. Ma io devo accendere musica particolarmente ignorante, cioè io devo mettere o musica degli ABBA, che poi nel 2011 si riuniscono. L'ho letto, questa è una buona notizia. Gigi Danelli dice forse no, perché? No, pare che siano già smentite la Svezia, comunque Marta, terremo d'occhio la faccenda. Esatto, terremo d'occhio perché Agneta ha detto che loro faranno degli show per beneficenza. Sì. Oppure devo mettere, non so, il CD col best of Loretta Goggi. Io queste cose, io comincio a ballare, a cantare per casa, passa tutto. Ah certo, io sono un'assoluta sostenitrice del ballo e del canto. E anche del sorriso, sì. Anche i miei vicini di casa. Anche i tuoi vicini diranno. La scena sembra quella dei Queen, uno storico video dei Queen, sì. Esatto. Tra l'altro, a proposito degli ABBA, io sono andata a vedere Mamma Mia e mi è piaciuta, ho cantato e ballato, mi è piaciuto un sacco. Marta, dovresti andarla anche tu a vederli. È proprio carino Mamma Mia, devo dirti, io non sono tanto una fan dei musical, perché non lo so, perché mi divertono poco, ma quello è proprio carino. Allora però Marta, noi abbiamo girato un po' intorno, devi darmi proprio il tuo consiglio, come se fosse una ricettina di quelle che scrivono i medici quando andiamo a farci visitare, che così la rimettiamo sul sito. La ricetta antistress 2011 di Marta Cagnola è... Mettete musica, cantate, ballate, la musica più ignorante possibile, cominciate a fare rumore per casa, chi se ne frega dei vicini, al limite vi suoneranno alla porta e li invitate a festeggiare. Grazie a Marta Gigi. Per Bacco, che feste, proprio il periodo prenatalizio. Ma io in realtà sono molto, forse più semplice, più banale, temo, nel senso che tanto stressati lo siamo inevitabilmente, credo. Io magari lo sono dai troppi impegni, allora che almeno siano divertenti, così nel lavoro, insomma la ricerca, noi poi che abbiamo la fortuna di fare un mestiere molto divertente. Che abbiamo già la fortuna di lavorare. Che abbiamo la fortuna di lavorare, primo. Il secondo, di un mestiere che comunque ci pone in contatto con molte persone, che è un elemento positivo, quindi stressiamo. Va bene, ma dandoci un'agenda ricca di impegni, di divertimento, e visto che mi hai preso in giro già in passato e ma di nuovo vero, anche ma... attraverso scusate anche ma non è vero, guardatelo sul sito, perché sì. Lui dicevo, fare io attraverso lo sport sicuramente con gli amici, beh, è una bella forma per scaricare lo stress, questo sicuro. Quindi la tua formula è: diventate scolpiti e meno stressati, divertitevi con gli amici in famiglia Senti, io so che tu sei fresco fresco, hai letto una buona notizia. Sì, già ho letto una buona notizia, in realtà appunto ne parlavamo ieri, siamo talmente, mi rendo conto, io stesso ossessionato dagli elementi un po' oscuri che poi le perdi di vista. Beh, la buona notizia è che dal 1 gennaio l'Italia sarà finalmente un paese wifi free, che è una follia visto che per gli ultimi 5 anni siamo stati gli unici in Europa a non esserlo, però questa è una buona notizia, non sarà più necessario consegnare i documenti per andare in un internet caffè. Soprattutto i gestori non saranno più obbligati a tenere il registro e quindi ci sarà maggiore possibilità di navigare liberamente nel nostro paese. Allora, grazie a Gigi Donelli, a voi che siete intervenuti. I messaggi sono molti. Allora, saggiamente, il mio grillo parlante, Laura Vanossi, che è in redazione, mi dice: mettiamo i, tra virgolette, vincitori, anche se non potrei utilizzare questo termine, perché i messaggi scelti sul sito, e uno riceverà a casa 365 buoni propositi per l'anno nuovo, l'altro i prodigi del pensiero positivo grazie alla collaborazione con IBS. Intanto noi ci avviamo alla chiusura e quindi vi saluto, vi aspetto domani, mi raccomando, elenchi positivi e sognate il futuro, è qui. Buona giornata da Nicoletta Carbone.